Siamo ritornati in diretta, 451 frammenti sonori, riparte con la seconda parte della puntata di stasera, sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo, penultima trasmissione quasi sicuramente dell'anno 2012, oggi la conduco io da solo, mancando il compagno di viaggi Max Macchia, che saluto ancora dalle frequenze della radio. Sicuramente la prossima puntata, che cadrà proprio il 23 di dicembre, dovrebbe essere condotta da lui, l'ultima puntata di questa annata. Poi non si sa mai, che il giorno, l'antivigilia di Capodanno, impazziamo e veniamo in radio, può anche essere, anche se ne dubito. 451 frammenti sonori, ricordiamo anche per coloro che volessero scaricare o ascoltare in streaming le vecchie puntate, nonché questa ultima trasmissione, che sicuramente sarà inserita nel blog tra circa 4-5 giorni. Potrete appunto andare sopra il nostro no blog, o dentro o a fianco, che è sempre 451frammentisonori.noblogs.org. Lì troverete anche notizie relative a concerti, eventi, soprattutto quelli che vengono portati avanti ormai da parecchi anni dall'area sismica, con cui c'è una collaborazione ormai da parecchio tempo, che noi cerchiamo di promuovere all'interno del blog. Dunque ci sono altre date nel corso del dicembre, negli ultimi 15 giorni di questo dicembre 2012, e anche ovviamente le notizie relative agli album e i progetti che abbiamo mandato in onda nel corso delle puntate dal 2010 fino ad oggi, perché sono circa 2 anni che stiamo curando questo blog. 451 frammenti sonori, che stasera, per coloro che si fossero messi in ascolto solo in questo momento sulle onde di Radio Città del Capo, che porta avanti questa serata una sorta di parodia, di gioco divertente, divertito e anche un po' sarcastico nei confronti di questa preannunciata ormai da giornali, siti e televisioni della fine del mondo predetta dai Maya. Ovviamente molti lo affrontano in termini abbastanza scherzosi o comunque quasi divertiti, ma qualcuno, e mi è capitato di capitare su dei siti più o meno seri, affrontano il tema anche con una certa possibilità, insomma siamo all'assurdo, ma questa famosa profezia dei Maya che prevede, qualcuno dice il 21, qualcuno dice il 23 di dicembre, la fine del mondo, e abbiamo appunto costruito una puntata che è intitolata Segnali sonori dalla fine del mondo, e abbiamo percorso nella prima parte della puntata territori legati al rock sperimentale e non solo, attraverso il progetto di David Thomas e Chappell Boys, poi Rocket from the Tombs, Wire, Pere Ubu e Alan Licht, che ha chiuso appunto con questa sorta di macellazione di un brano glam rock veramente improponibile, che è stato rimasticato e macellato appunto da Alan Licht, creando un loop ipnotico e assurdista. E abbiamo aperto questa seconda parte, come avevo preannunciato, invece in una dimensione più elettronica e anche molto più variegata, lo ascolterete nel corso della puntata, aprendo prima di tutto con un autore che abbiamo scoperto da poco, ma è un autore piuttosto giovane, che ha fatto uscire il suo primo album nel 2010, intitolato All Come Drums, per la Border Community, autore inglese, musicista e compositore che si diletta a recuperare strumenti vintage anni 60-70, soprattutto elettronici. E Luke Abbott, che abbiamo inserito qualche puntata fa in una trasmissione di 451, da All Come Drums appunto emerge il suo riferimento musicale piuttosto chiaro, la Cosmic Music, utilizzando anche strumentazioni che negli anni 70 venivano utilizzate dal progetti dei gruppi come Armonia, Cluster, Noi negli anni 70, ma si sentono anche degli echi di certe atmosfere sognanti e di allontanamento, quasi di fuga, molto molto vicine alle sonorità degli anni 90 di Boards of Canada o di certi progetti connessi alla Warp. E Abbott, con molta originalità, identità e personalità, costruisce un suo linguaggio, un suo suono e anche una sua poetica compositiva, coniugando questi due aspetti musicali e creando appunto un suono che comunque si inserisce molto bene negli anni zero. Abbiamo appunto ascoltato due brani dall'album del 2010, All Come Drums, e adesso invece ci spostiamo, rimanendo appunto sempre in una sorta di colonna sonora, di narrazione sonora della fine del mondo, di quasi musiche, suoni e frequenze che preannunciano, che allertano la popolazione, il mondo intero, verso questa apocalisse. Abbiamo anche oltretutto inserito dei gruppi e dei brani che si rifanno a questa tematica nella prima parte, come Apocalypse Now, l'album, il titolo dell'album del 99 di Pere Ubu, ma anche il brano da Rock and Form the Thumbs, Final Solution, oppure quello di David Thomas, Prepare to the End. E anche adesso ci spostiamo verso una sonorità molto molto dura, molto molto anche algida, fredda, tecnologica, appunto quasi a raccontare o a preannunciare l'imminente distruzione, attraverso una formazione anche questa piuttosto giovane, nata negli anni zero e quasi morta subito nel giro di un paio d'anni, un progetto semi sconosciuto, Wovenfold, un progetto costruito da Noel Murphy e Tom Hill, che poi hanno continuato le loro produzioni musicali in maniera indipendente, ma hanno portato avanti circa un album e tre EP dal 2001 al 2003, e abbiamo proprio selezionato questo album uscito per la Wichita nel 2002, Freefold, interessante, con molti riferimenti, soprattutto atmosfere warpeggianti, in particolare molto molto forte il collegamento a sonorità e all'aspetto compositivo frammentato, decostruito degli Otecre. Sentirete subito dalle prime note il riferimento marcato, ma ci sembrava interessante inserirle in questa sorta di calderone, di questa sorta di caos che potrebbe anche essere, chissà, salutare o primigenio rispetto a un nuovo mondo, dato che parliamo della fine di questo mondo. Devo dire che, al di là della distruzione, che ovviamente coinvolgerebbe tutti o quasi tutti, dunque anche soggetti e situazioni che sarebbero da salvare, ci sarebbe anche molto da insomma sperare che cadesse, ecco, molte delle cose che ci viviamo, la società, il sistema economico, il sistema politico e sociale, le relazioni, la devastazione che questo sistema ormai ha realizzato a piene mani rispetto all'ambiente, al territorio, all'urbanizzazione, alle architetture anche urbane che ci viviamo, oltre che le devastazioni. Su questo poi il terreno legato all'ambiente, o comunque alla costruzione, alla devastazione del territorio, i media spesso appunto fanno finta di niente, non a caso, insomma, perché ancora questo discorso della devastazione, in Italia in particolar modo, col dissesto idrogeologico che continua a devastare interi territori, quando cade un po' più di acqua o c'è anche un mezzo terremoto, è significativo, ma su questo nessuno interviene, perché ovviamente gli interessi in campo capitalistici legati alle costruzioni e alle infrastrutture continuano a essere estremamente forti e pompati ovviamente dai poteri che contano in questo paese. Basta ricordare la NOTAV, ovviamente il movimento NOTAV che noi appoggiamo, ma ovviamente il progetto della TAV, ma non solo, la Pedemontana qui vicino a Bologna, o il progetto del Passante Nord, che, su cui nessuno parla, ma che sembra ormai arrivato addirittura d'arrivo, insomma un progetto devastante che prevede una sorta di super tangenziale autostrada che parte da San Lazzaro e arriva fino a Casalecchio, che gira intorno passando per Castelmaggiore e altri paesi, un'opera assolutamente inutile, che però ovviamente dietro gli interessi dei costruttori, in particolar modo delle COP legate al territorio dell'Emilia Romagna, è piuttosto elevato. Ecco, uno di questi esempi è abbastanza forte. Ecco, tutte queste cose farebbero ben pensare che, chissà, se si potesse radere al foro e ripartire su un altro tipo di sistema e di sviluppo, forse sarebbe anche meglio. Però, al di là di questo, andiamoci a sentire intanto Wovenfold, la devastazione ritmica, il suono massacrante Wovenfold, che poi però si dilata e diventa qualcos'altro, apre ancora il nostro percorso da segnali sonori dalla fine del mondo. Wovenfold.

Thank you. Siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato lo splendido lavoro di One and Fold, che è sicuramente anche sorprendente in alcune scelte stilistiche, questo percorso sonoro che poi a metà della strada cambia rotta completamente e poi rientra invece sulle dimensioni soniche di partenza. E l'abbiamo mixato a un pazzo, un genio assoluto, con queste atmosfere sognanti e quasi di recupero di certe dimensioni soniche sonore, addirittura con certi richiami anni 50, quasi colonne sonore di film molto molto particolari, connesse alla fantascienza o comunque al fantasy. E abbiamo inserito appunto un disco di questo genio che spesso ha attraversato le frequenze di 451 frammenti sonori, Tom Rechion, musicista e compositore californiano. Già dagli anni 70 fu uno dei creatori, degli ideatori del progetto, del collettivo, del progetto Super Aperto del Los Angeles Flute Music Society, un vero e proprio contenitore aperto a tutte le esperienze di progetti musicali, di musicisti, di autori. Ci sono state delle performance nel periodo appunto tra il 74 e il 79 del Los Angeles Flute Music Society, dove c'erano appunto delle intere giornate di session dal vivo, di metodologie proprio di incontro e di scambio musicale assolutamente uniche. Da lì nacquero moltissimi progetti che poi furono assemblati qualche anno fa, recuperando tutti i materiali di questo collettivo aperto e assolutamente innovativo degli anni 70, un vero e proprio cofanetto con ben 10 CD, dove viene appunto ripercorsa l'esperienza di questo progetto straordinario, con il fatto che Tom Rechion faceva parte di molti di questi progetti, da Dinosaurus Returns ai Dudes, allo stesso progetto molto conosciuto degli Smegma e tanti altri progetti a cui ha partecipato Tom Rechion. Musicista eclettico che ha attraversato veramente variegati generi, dal punk, che attraversò anche gli Stati Uniti negli anni 70, al punk rock, al jazz, appunto a queste atmosfere sonore elettroniche assolutamente uniche, fino ad arrivare anche a dimensioni improvvisative e a sonorità vicinissime alla contemporanea. Il disco che abbiamo utilizzato per ascoltare questi due brani splendidi, in cui sentiamo anche in sottofondo anche questo sognante e misterioso brano che sembra quasi aleggiare in una dimensione post distruzione, post fine del mondo, no? Una sorta di frammenti di quello che è rimasto dall'apocalisse. Caotica è l'album uscito per la Birdman Records del 1996. Abbiamo ascoltato questi due brani per dare un'altra visione, un altro racconto sonoro della fine del mondo attraverso queste allucinazioni e queste ideazioni sonore di Tom Rechion. E da Tom Rechion ci spostiamo in terra canadese, dagli Stati Uniti, andiamo a incontrare un musicista d'avanguardia molto sperimentale nell'ambito dell'elettroacustica e anche compositore che ha lavorato a centri di ricerca come la Montreal Label Imprints Digitales, e musicista canadese Gil Gobail, che anche poi si è spostato negli anni 80 in Francia per altri centri di ricerca sperimentali d'avanguardia, come le Groupe de Recherche Musicale a Parigi, ma anche in altri centri, come anche in altri centri canadesi. Musicista a tutto tondo che appunto include e ricerca nell'ambito dell'elettroacustica, ma spesso entra anche nell'interno dell'elettronica attraverso una frammentazione, una sorta di collage sonoro, creando poi dimensioni anche di mixed media, e dunque utilizzando anche dimensioni artistiche ed espressive al di fuori dell'aspetto squisitamente musicale, per attraversare dimensioni più legate alla visual art o a installazioni che appunto vanno incontro a una dimensione di scultura sonora, di video e di suono puro. Musicista che nel campo delle sperimentazioni ha iniziato a lavorare già dagli anni 70, ma fondamentalmente gli album più importanti, i dischi, dunque le produzioni sonore squisitamente legate ai vinili o ai CD, è avvenuta da Gil Rigo Benz dagli anni fine anni 80, inizio anni 90 fino agli anni 0. Abbiamo selezionato un disco che è estremamente interessante anche perché fa un lavoro di texture e dunque di sperimentazione anche sulla voce, sul parlato, sulla narrazione, oltre che sul suono e su aspetti anche concretisti. Il disco Le Contrat, uscito nel 2003, alla fine del 2003, costruito insieme a un altro chitarrista piuttosto conosciuto che è passato alcune volte in 451 frammenti sonori, francese René Lussier. Hanno costruito appunto questo disco molto interessante che appunto ripercorre praticamente a livello sonoro il Faust di Goethe sicuramente un disco che può dare un altro tipo di narrazione sonora all'idea che vogliamo portare avanti di questa sorta di segnali, di avvertimenti e di preannunciazioni della fine del mondo. I Maya ci aspettano, dunque potremmo diventare anche noi dei Maya con il cranio allungato come facevano gli stessi Maya e potremmo creare una società differente, chissà mai, non ci sarebbero primarie, non ci sarebbero PD, non ci sarebbero partiti, non ci sarebbero architetture devastanti urbanizzate, ci sarebbe il capitale, cosa importantissima, ci sarebbero gli Stati Uniti, non ci sarebbero moltissime cose, non potrei finire mai con l'elencazione. Andiamoci a sentire Le Contrat, Gilgo Bale insieme a René Lussier. L'expérience quotidienne et la mémoire du passé montrent, dans un craintif accord, que presque tous les hommes vivent d'une manière tout opposée au commandement du décalogue. Même les chrétiens adorent, plus ou moins ouvertement, d'autres divinités, entre parenthèses, Mammon, la matière, l'idée, la science, le sexe, etc. Fermez la parenthèse. Ils blasphèment souvent le nom de Dieu. Ils supportent, peinent et mortifient leurs parents au lieu de les honorer. Ils tuent, dans la paix et dans la guerre, leurs ennemis. Ils s'emparent par la force ou la ruse des biens d'autrui. Ils désirent la femme et les choses des autres, pratiquent sans scrupule la fornication et pire. Et pire point, en fait. sais pas, on a demandé s'il y avait, mais c'est pas le culture général. Hein? C'est pas les armes de lumière, c'est pas des... C'est quand l'avion supersonique est passé, là. Aussitôt qu'il est passé, bouf, tout se tourne. Popular idea, encouraged by Shakespeare, that the tawny owl calls to wit to woo, has arisen from a confusion between the separate kivit contact call and the quavering territorial hooting which, in the popular imagination, have become combined. Thank you. Bene, siamo ritornati in diretta, abbiamo inserito questi ultimi due brani, Advisory Circle, un altro viaggio sonoro nei meandri di ricordi e di passati legati anche a un certo, chiaramente, legame con la musica cosmica, ma c'è di più, c'è qualcosa proprio legato a sonorità connesse a dimensioni di colonne sonore, sembra quasi di cartoni animati, di filmati, di documentari che andavano molto in voga negli anni 60-70, queste colonne sonore che ricordano una certa elettronica e che hanno un legame da parte di Advisory Circle anche con altri progetti similari che sono emersi nella fine degli anni zero e appunto l'inizio della decade attuale, dunque tra 2008 e 2012, come progetti come Belbori Poli, ma anche Monte Vernon Arts Lab, Focor Group, insomma vari gruppi che anche hanno contribuito a questa sorta di riedizione sonora di certe dimensioni degli anni 70 e di musicisti anche estremamente avanzati che per campare dovevano appunto realizzare colonne sonore, sigle e motivetti e stacchi per la televisione o per la radio. E Advisory Circle ha sicuramente una dimensione, una progettualità estremamente interessante e musicisti che emergono e portano avanti il loro progetto sonoro attraverso la Ghost Box Label e sono ovviamente legate al territorio inglese. Advisory Circle l'abbiamo ascoltati dall'ultimo disco uscito per la Ghost Box, appunto As The Crow Files, e da Advisory Circle un altro modo di segnalare, di narrare a livello sonoro l'ipotetica o forse anche probabile fine del mondo, andiamo a pescare invece in questo caso un americano a cui io sono particolarmente legato, Frank Powell, musicista anarchico assolutamente obliquo e delirante nelle sue costruzioni sonore fin dagli anni 80, musicista che ha lavorato anche con John Chadbourne e Pascal Comelà, ad altri musicisti che si muovono su questo territorio tra delirio, gioco e assurdità. Pal, che abbiamo spesso inserito, soprattutto negli ultimi due anni, nei programmi delle trasmissioni di 451, e abbiamo in questo caso invece pescato un brano da un disco uscito per la Punk nel 1994, The Romantic Side of Schizofrenia. Interessante e anche divertente il titolo, appunto il lato romantico della schizofrenia. Forse bisognerebbe essere forse anche più schizofrenici di quello che siamo per riuscire a reggere meglio questo delirio vivente, quotidiano, che ci becchiamo nella nostra vita, che spesso veramente risulta assurda. Come assurda forse l'ipotesi di questa fine del mondo a 4, 5 o chissà 7 giorni o entro la fine dell'anno, come assurdo anche tanto elemento di comunicazione, tanti discorsi sul nulla che attraversano i media, in particolar modo purtroppo anche molte radio. Ci andiamo a ascoltare un brano appunto da The Romantic Side of Schizofrenia, Frank Powell, e poi continueremo il nostro viaggio verso la fine. E siamo rientrati in diretta con appunto questo splendido lavoro di Frank Pahl che abbiamo appena ascoltato. Ricordiamo ancora 1996, il disco uscito per Romantic Side of Schizofrenia, anzi scusate, ma purtroppo comincia a svilupparsi la fine della serata, più che la fine del mondo. 1994, il disco di Frank Pahl, ricordiamo ancora, uscito per la Punk, disco appunto estremamente interessante da seguire. Questo autore che, seppur ormai con la sua età abbastanza avanzata, ha fatto uscire l'ultimo lavoro nel 2010, speriamo che esca fuori qualcos'altro, perché è un autore che inventa sempre qualcosa. Anche in questi ultimi anni ha saputo sempre reinventarsi a livello sonoro. Verso la fine del mondo andiamo a pescare l'ultimo lavoro di questa serata, un autore non particolarmente conosciuto, un autore francese che lavora nell'ambito sia dell'elettronica che della musica concreta, ma con forti anche interessi e miscelature e contaminazioni con il jazz e un certo anche rock, che utilizza in maniera assolutamente simile a quella di Alan Licht. Dunque utilizza frammenti, nastri e vinili per frammentare dei brani e utilizzarli in maniera assolutamente geniale. E nel brano in questione sentiremo una chitarra che si muove su queste direzioni, seppur direttamente suonate, essendo Michel Branch un chitarrista. Michel Branch, dunque, questo autore francese che ha fatto uscire circa 4 album dal 2006, abbiamo beccato e inserito questa sera il disco Les Onze Tableaux de l'Escudet. Chissà che francese devastato che ho pronunciato, ma comunque non c'è Max, che è abbastanza esperto in francese, per aiutarmi, dunque mi dovete scusare. L'etichetta di riferimento di questo disco è Detras Cordet, e questo disco, uscito nel 2008, ci dà, diciamo, un ultimo aspetto sonoro della nostra narrazione di questa sera. La fine del mondo è vicina, chissà mai. Noi intanto godiamoci questo ultimo lavoro di questa serata, di chiusura del nostro percorso musicale di 451 frammenti sonori. Michel Blanc a chiudere la puntata di stasera. Chiaramente noi saremo in onda la prossima domenica, che cadrà proprio il 23 di dicembre, l'antivigilia di Natale, e ovviamente io invece vi saluto e vi aspetto a questo punto per il 2013, se saremo ancora qua. Chissà, la radio starà qua? Beh, saremo tutti qua? Non si sa. Intanto chiudiamo e ovviamente vi auguro una buona nottata. Buonanotte. Plan Adrien, classe 1912, grenadier d'élite, c'est hardiment risqué sous les feux les plus violents pour assurer la transmission des ordres au cours des combats. We'll be right back. 7 novembre 1916. A progressé dans un boyau occupé par l'ennemi comme premier lanceur, faisant 7 prisonniers. Blessé le 8 pendant le bombardement. Abomiye.